fuori piove ed io sono dentro a scrivere queste parole. Prendo foglie e penna e rimo un'altra merda. Se questa è la trasparenza, bella bassa la testa. Tra queste città ho imparato il rispetto per l'altrui ghetto. Se questa è la vita, fondare a fanculo dell'anno 9-1 che mi spacca il culo per trovare un posto sicuro in questa casa. La gente disprezza e c'è chi nasce pezzo di merda che fa la copertina del CD. Mi dice bella B, io già sono qui, io sono un LP masterizzato, vanno in giro a vendere per il mercato. Questo è quello che ho imparato e la gente l'ha apprezzato. Creo musica con un programma pacco, non mi sbatto. Se questa roba mi piace, farò lo faccio. Musica italiana, musica metropolitana, musica da strada. Lo voglio la strada, il cemento, tutto questo lo porto dentro. L'orgoglio, la strada, il cemento, tutto questo lo porto dentro. L'orgoglio, la strada, il cemento, tutto questo lo porto dentro. L'orgoglio, la strada, il cemento, tutto questo lo porto dentro. Yo, 2006, GRIFF. Yo, un'altra merda. Yeah, bro. Yo.